Zero. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, brava. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene. Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei. Con Imu e Yuk sono Giacciuk. La tia per mia zia. La tari ci brucia i danari. Zero. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Sarebbe proprio il caso di dire tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, e allora avrete già capito da quale fatto di cronaca partiamo questa settimana, quello che ha visto come protagonista un artista molto famoso, Gino Paoli, che tra l'altro è anche presidente della SIAE, se non mi ricordo male in questi giorni si dovrebbe anche essere sospeso da questo incarico. È indagato dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gli accertamenti sull'artista riguarderebbero trasferimenti di denaro all'estero, circa 2 milioni di euro portati, manco a dirlo, in Svizzera. Partiamo da questa notizia oggi per la pagina di Denari, che non è dedicata però ai grandi evasori, bensì a tutti o presunti tali, naturalmente, perché poi ci saranno tutti gli accertamenti anche su questo caso, ma a tutti coloro che in buona fede hanno il dubbio che una somma o un immobile all'estero li metta in una posizione irregolare. Per cui torniamo a spiegarvi come funziona questo termine. Dillo tu. Complicato solo a pensarlo, la voluntary disclosure, la procedura italiana che permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero e vuole sistemare situazioni che giudica al limite. In questo modo ai veri evasori non restano scuse, ma solo le giuste sanzioni che si meritano, e meno vale, verrebbe da dire, visto che a forza di sentire parlare di furbi e furbetti ci viene fastidio quasi epidermico. Nicoletta, ti ho dato un bell'assist. Assolutamente sì. Sì, è una sgradevole sensazione che provoca il desiderio di grattarsi. Così, con una buona dose di genericità, viene definito il prurito, e da più di 2000 anni. Pensate che i medici si interrogano su questa speciale percezione cutanea. Il primo fu proprio Ippocrate, che cercò di capire se si trattasse di un sintomo o di una malattia a sé stante. Spesso il prurito a cause banali, che so, la secchezza della cute o la puntura di un insetto, altre volte però è il segnale di malattie più importanti. Quindi un'analisi delle sue caratteristiche e di eventuali sintomi associati è necessario per capire l'origine del problema e quindi trovare le adeguate soluzioni. Ci faremo aiutare oggi da un grande esperto. 800 24 0024 se volete già prenotare i vostri interventi. Ci siamo affezionati, l'abbiamo già imparato giovedì, ad investire informati, non possiamo più sbagliare. Avvocato Vedana, intanto, è il nostro primo ospite di oggi, benvenuto. Buongiorno. Riconosce questo brano? Beh, sembrerebbe essere un famoso inno della Confederazione. Bravo, lo conosce, preparato. È vero. Allora, parliamo dell'inno della Svizzera. Svizzera che proprio oggi, peraltro, firma con il nostro paese un accordo molto importante a cui si lavora da anni, che sancisce di fatto la fine del segreto bancario fra questi due paesi, che collaboreranno nello scambio di informazioni. Quindi l'intenzione è quella di far sì che la Confederazione Elvetica non sia più un paradiso fiscale, ma insomma ci vorrà ancora del tempo perché il nuovo testo deve essere sottoposto alla ratifica dei due parlamenti. Oggi però non parliamo nello specifico del segreto bancario, non ci dedicheremo nemmeno al franco svizzero, né tantomeno parleremo dei 7500 italiani comparsi sulla lista Falciani, L'elenco di clienti, sospetti evasori della filiale della banca HSBC di Ginevra, diffusi appunto da Hervé Falciani, che ne era il consulente informatico, ma è il cantante Gino Paoli a far parlare di sé come di un sospetto evasore. Allora, la Guardia di Finanza si sarebbe messa sulle tracce del denaro di Paoli, lavorando alle indagini sulle vicende di Banca Carige o Carige. L'ipotesi degli inquirenti è che l'artista nel 2008 abbia trasferito illecitamente 2 milioni di euro in Svizzera, quindi facendo mancare circa 800 mila euro nella dichiarazione dei redditi nel 2009. E peraltro, mentre finiva la ribalta della cronaca il caso Paoli, avveniva un altro, l'ennesimo sequestro di conti correnti e titoli per un valore complessivo di 9 milioni e mezzo di euro nei confronti della famiglia Ligresti. Insomma, anche di questi ritorniamo a parlare. Fine, manco a farla apposta, proprio nei giorni in cui si susseguono tutte queste notizie, entra sempre più nel vivo la procedura italiana che permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero e vuole sistemare situazioni al limite, la voluntary disclosure. Allora, se ne volete sapere qualcosa di più, se avete delle situazioni che non sono quelle della grande evasione fiscale, vi faccio solo un esempio. Su Facebook ci ha scritto un ascoltatore, Pino, che ci racconta di sua figlia che è stata assunta come infermiera in un ospedale di Londra e non capisce bene come gestire questa posizione rispetto al fisco italiano. Quindi sono questi i casi di cui parliamo e che possono essere proprio, avvocato Vedane, intanto lo risalutiamo di nuovo, sistemati un po' con il fisco italiano. Vi presento il nostro ospite, appunto l'avvocato Fabrizio Vedane, vice direttore generale di Unione Fiduciaria SPA, esperto di questi argomenti per il Sole 24 Ore. Che cosa le suggerisce intanto il caso che le ho citato? Beh, il caso che ha citato fa ancora una volta capire che c'è poca conoscenza degli obblighi dichiarativi che hanno gli italiani che hanno delle attività all'estero. C'è il famoso, famigerato quadro RW della dichiarazione dei redditi, che deve essere compilato da tutti coloro che, anche e normalmente lecitamente, hanno attività oltre confine, immobili piuttosto che, nel caso di specie, il conto corrente sul quale vengono accreditati probabilmente gli stipendi di questa infermiera. Semplicemente va compilato questo quadro, non è un quadro che comporta chissà quali adempimenti, va compilato. Se non viene compilato, espone il soggetto che non compila il quadro a delle sanzioni amministrative. Ma in quali casi va compilato? Nel senso, se questa giovane che è andata a lavorare all'estero avesse il suo domicilio fiscale, la sua residenza a Londra, cioè a prescindere anche da questi aspetti, deve dichiararlo al fisco italiano? Lo presenta nella misura in cui è fiscalmente residente in Italia, quindi ha obblighi dichiarativi nel nostro paese, quindi le tasse le paga in Italia. Se, come può essere capitato in molti casi anche recentemente, ha deciso di spostarsi fisicamente ma anche fiscalmente in un altro paese, purché non a fiscalità privilegiata, altrimenti le cose si complicano, ma l'Inghilterra non è un paese a fiscalità privilegiata, può tranquillamente presentare la sua dichiarazione dei redditi in Inghilterra, ovviamente pagando le tasse, tutte le tasse in Inghilterra. 800 24 00 24, non abbiamo ancora ricordato il numero verde per intervenire in diretta, ma naturalmente ormai i nostri ascoltatori lo conoscono bene. Però nuovi amici ci seguono. E certo, ogni giorno. E quindi per ci cui fa piacere che ci chiamino. Li invitiamo a chiamarci. Esatto, potete fare anche come ha fatto Pino, che ci ha scritto su Facebook, o utilizzare anche la mail se avete bisogno magari di descriverci un caso un po' più articolato, oppure potete scriverci anche al 349-238-6666. Vuole commentare anche, avvocato Vedana, le notizie di cronaca di questi giorni di Gresti, Paoli, Falciani? C'è qualcuno che l'ha stuzzicata particolarmente? Beh, la curiosità evidentemente non è solo femminile. Io ho comprato il libro scritto da Falciani con un collaboratore del Sole 24 Ore. Con Angelo Mincuzzi. Perfetto. E curioso vedere anche se c'erano i famosi 7.000 italiani. Per ora i nomi di 7.000 italiani nel libro non ci sono, li ha pubblicati a strascichi, a stralci altri giornali, l'Espresso e via dicendo. La lista Falciani si era già vista, per la verità, con gli scudi fiscali 2009-2010, quindi un discreto numero di soggetti presenti in quella lista già hanno sistemato la loro posizione col fisco. Altri, bisogna capire se lo faranno con la voluntary, sempre che ne abbiano bisogno. matrimonio. La vicenda Paoli credo che faccia capire l'importanza di avvicinarsi alla voluntari velocemente. Tengo a precisare che peraltro nella vicenda Paoli c'è un aspetto che è stato recentemente chiarito proprio in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate con una circolare a commento di quanto emerso anche in occasione di Telefisco, la nota trasmissione del Sole 24 sì. Ore. Sostanzialmente se già viene avviato un accertamento nei confronti del soggetto, come è probabilmente il caso di Paoli, non gli viene preclusa la possibilità di fare la voluntari, deve istruirsi a dovere con l'aiuto del suo professionista, ma può comunque godere dei vantaggi in tutto in parte della voluntary, che come vedremo sono anche di tipo penale. Allora, sì, certo, descriveremo nel dettaglio questi aspetti. Un'altra informazione di servizio, prima di entrare nel vivo di questi argomenti, ricordiamo che proprio questa settimana, giovedì 26 febbraio, Unione Fiduciaria in collaborazione con il Sole 24 Ore organizza proprio qui in via Monterosa, dove ci sono i nostri studi, ma con collegamenti, un po' un evento simile a Telefisco, quindi con collegamenti in altre città, Tele Voluntary, un evento dedicato proprio a spiegare le novità di cui parliamo anche questa mattina. Come funzionerà, avvocato Vedana? Se ci fosse qualcuno interessato a seguirvi, lo possono fare tutti o solamente i professionisti del fisco e non solo? Lo possono fare tutti. Credo che la grande vera novità della Tele Voluntary rispetto ad esperienze analoghe di Telefisco è che per la prima volta ci saranno dei collegamenti anche con le sedi estere. Lugano, Zurigo, Ginevra, che sono evidentemente tre piazze importanti per la voluntary, non fosse altro perché oggi la Svizzera firma l'accordo con l'Italia ed evidentemente questo accordo dà il là definitivo al decollo della voluntary. Tutti possono partecipare, basta guardare il sito del Sole 24 Ore nella sezione eventi con tutte le istruzioni per poter aderire. Allora, adesso noi facciamo un po' di riscaldamento, impariamo i fondamentali, giusto? Infatti, io direi di farlo subito con un ascoltatore. Sì, Ermanno, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. 800 24 00 24, il primo ascoltatore della prima della settimana. Buongiorno Ermanno. Già solo per questo si meriterebbe dei premi. Grazie, io lo aspetto il premio. Ma sì, che certo. Ogni promesso è un debito. Volentieri, allora due libri. Ci dica Ermanno. Complimenti per il servizio che ci fornite. Grazie. Volevo solamente chiedere un'informazione riguardo una pensione che mio suocero percepisce in Svizzera, di questa pensione di invalidità, non l'ha mai dichiarata al fisco italiano, però è dichiarata al fisco svizzero. Ci siamo sempre dimenticati, non volontariamente ma involontariamente, di inserirla nel quadro adeguato del 730. Adesso però vorremmo regolarizzare questa cosa, perché tra l'altro la SUVA, che è il servizio svizzero dell'invalidità, ci fornisce tutti gli anni la certificazione, per cui vorremmo adesso approfittare adesso della voluntary disclosure. Ermanno, esatto. Grazie molte. Grazie. Allora, Ermanno dice: noi in buona fede non abbiamo mai fatto questa comunicazione al fisco italiano, però era regolare la posizione con il fisco svizzero, ha tenuto a precisare il nostro ascoltatore. Avvocato Vedana. Beh, allora, innanzitutto la prima domanda che si dovrebbe porre l'ascoltatore è qual è il saldo a fine anno del conto corrente, che immagino a questo punto sul quale verrà accreditata questa pensione. Se superiore a 15.000 euro, sicuramente è bene che valuti con attenzione l'adesione alla voluntary. Se così è, quindi superiore a 15.000 euro, quanto gli può costare la voluntary? Alla luce dell'accordo Italia-Svizzera, avuto riguardo al fatto che questo ascoltatore, o meglio la persona per conto del quale parlava dell'ascoltatore, ha dei soldi non diciamo nascosti al fisco, sono soldi dichiarati, guadagnati lecitamente, non frutto di evasione fiscale, ma semplicemente non esposti nel quadro RW, il costo della voluntary può essere veramente molto molto modesto, uno 0,5% per 5 anni, quindi il 2,5% della somma non dichiarata al fisco, più delle sanzioni degli interessi in minimi termini. Credo che siamo tranquillamente sotto il 5% come costo della voluntary, che mette al riparo l'ascoltatore, il suocero dell'ascoltatore, da eventuali future contestazioni per la mancata compilazione del RV, cosa che sarà più facile in futuro per l'amministrazione fiscale poter contestare, perché alla luce dell'accordo che appunto oggi Italia e Svizzera stanno firmando, firmeranno nel pomeriggio, la Svizzera dovrà rispondere in maniera molto più rapida da qui al 2016 a tutte le eventuali rogatorie, e dal 2017 ci sarà un flusso automatico di dati. No, stavo tra l'altro concentrando la mia attenzione sul fatto che comunque ogni anno questa persona ricevesse la certificazione da parte dell'amministrazione fiscale svizzera relativamente al pagamento e all'accredito appunto di questa pensione. Questo era già un indicatore che doveva suggerire a Dermanno che comunque la comunicazione al fisco italiano andava fatta, o in ogni caso è un documento, un atto dovuto che arriva e... No, beh, un atto dovuto, è un atto dovuto, evidentemente non era una comunicazione che veniva comunicata anche all'amministrazione fiscale italiana, quindi era un atto tra privati, quindi l'azienda svizzera nei confronti del cittadino italiano. Quindi a maggior ragione, però, ripeto, alla luce dell'accordo è bene che valuti di aderire alla voluntary se il saldo del suo conto supera i 15.000 euro. Allora, volevo fare anche un punto della situazione sulle differenze rispetto agli scudi fiscali del passato. Vedo che però già gli ascoltatori hanno archiviato il passato, guardano al presente. Allora direi di dare spazio ad Anna Maria. Direi benvenuta, sì. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo un'informazione. Mia figlia nel 2014 è andata a lavorare in Inghilterra, sì. Regolarmente assicurata, paga le tasse in Inghilterra, però continua ad avere la residenza qui in Italia perché ancora non ha deciso bene. Quello che voglio capire, se già paga le tasse in Inghilterra, perché deve ripagarle anche in Italia? E se sì, in che misura? E poi viene a gravare sul reddito della famiglia dove, diciamo, non contribuisce, e quindi avrò un ISE modificato. Cioè, c'è tutto un effetto domino. Paura, ecco. No, non si spaventi, ci mancherebbe, Anna Maria. Dobbiamo capire però appunto come cristallizzare questa situazione di questa giovane. Che cosa fa tra l'altro sua figlia in Inghilterra, Anna Maria? Fa la parrucchiera. Perfetto, grazie Anna Maria. Allora, Anna Maria ha detto paga le tasse già in Gran Bretagna questa ragazza, e allora dice per quale motivo deve avere una doppia posizione fiscale, e quindi... Ma non è necessariamente vero quello che dice l'ascoltatrice, nel senso non necessariamente dovrà ripagare tasse anche in Italia se le ha già pagate al fisco di sua maestà in Inghilterra. Il quadro RW più volte citato non è un quadro dalla cui compilazione necessariamente devono derivare esattamente il pagamento di imposte ulteriori. Il quadro RV ed altri quadri adesso collegati servono proprio ad evidenziare eventuali crediti d'imposta, che sono quindi le imposte già pagate dal residente fiscale in Italia, in questo caso alla regina d'Inghilterra, potranno essere evidenziate nell'ambito del quadro RV in modo tale da evitare pagamenti di imposte anche in Italia. Quindi è un quadro dichiarativo, non necessariamente un quadro dalla cui compilazione nascono nuove imposte. Il commento di Anna Maria però veramente ci dà la misura di come questi provvedimenti vengano comunicati male, come passino proprio male certi messaggi, come quando si fanno anche queste operazioni passino sempre solo come degli scudi fiscali che vogliono andare in qualche maniera a sanare situazioni pregresse di grandi evasori, perché poi alla fine, no Nicoletta, il messaggio che passa sempre questo. Invece, come dire, questi provvedimenti hanno anche lo scopo proprio di rendere serene certe famiglie che per esempio mandano i figli a lavorare fuori, per cui ovviamente poi per non immetterli in una strada di irregolarità è chiaro che devono avere anche una cornice legislativa appunto di riferimento precisa, come in questo caso è la volontà. Però non so se ho fatto il ragionamento, avvocato Vedana, che ne pensa, perché viene percepito sempre come un provvedimento, questo, come lo è stato anche nei casi passati, vanno a sanare certamente situazioni di irregolarità anche macroscopiche, ma abbiamo anche bisogno comunque di un quadro di azione certo per chi invece in totale buona fede va a lavorare all'estero oppure vuole fare un piccolo investimento all'estero, comparsi una casetta, che ne so, in Francia, in Grecia, non saprei, no? Beh, è bene sottolinearlo, la stessa normativa europea consente la libera circolazione anche degli strumenti finanziari, delle attività finanziarie, quindi non è vietato avere attività all'estero. Sicuramente la voluntary disclosure o collaborazione volontaria non è pensata per sanare situazioni come quella della signora, che peraltro, della figlia della signora, che peraltro ad oggi non è ancora una violazione, perché se ha guadagnato questi soldi del 2014 è assolutamente nei termini per poter presentare integrando eventualmente la sua dichiarazione dei redditi o quella della famiglia. Tengo a precisare che l'Agenzia delle Entrate, in maniera, devo dire, puntuale, precisa, sul suo sito mette evidenza di quelli che sono gli obblighi fiscali che hanno gli italiani che hanno un lavoro o un'attività all'estero. Io credo che internet da questo punto di vista aiuti molto, quindi chi decide di cambiare vita o di avviare un'attività imprenditoriale all'estero o di trovare un lavoro all'estero, si faccia un giro sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul fisco collegato, che è Fisco Oggi, o sul sito del 24 ore, e troverà secondo me ampie e chiare informazioni su quelli che sono i suoi obblighi dichiarativi. Altrimenti ne parla col commercialista. Credo che il commercialista possa dare tutti i ragguagli necessari. Per cui, insomma, se avete un figlio che lavora all'estero, nessuno lo considera un evasore fiscale, nessuno gli chiede niente, soprattutto se hanno dei contratti di lavoro regolari, se pagano le tasse in questi paesi, qua si tratta solamente di stabilire che tipo di comunicazione deve essere resa al fisco italiano. Nessuno vi chiederà di pagare alcunché in più. Cuore e denari. Amor fa metter l'ale all'anima, e questo metter dell'ale è come il metter dei denti dei fanciulli, il quale è accompagnato da prurito, che è una cosa mista di diletto e di consumamento. Anton Maria Salvini, Deborah, letterato, che è stato tra i compilatori del vocabolario della crusca. Però piacevole e al tempo stesso doloroso. Il prurito è uno strano sintomo, segnala sicuramente la presenza di un disturbo, di un'irritazione, di un'allergia o di uno squilibrio. Quando si presenta è difficile ignorarlo, perché si ha immediatamente l'istinto di grattarsi per trovare un momentaneo sollievo. Subito dopo il desiderio di capire quale sia la causa che lo ha scatenato, ed è spesso al dermatologo che ci si rivolge per trovare risposta. E per questo, a partire dalle 11.45, sarà con noi un grande esperto, il professor Carlo Germetti, dermatologo all'Università di Milano, che ci aiuterà a inquadrare il problema e a trovare indicazioni e soluzioni. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Eh sì, può essere anche la proprietà di una casa all'estero, se non dichiarata correttamente, a metterci in una posizione irregolare rispetto al fisco italiano. Allora oggi stiamo parlando di come si possono rendere più trasparenti queste situazioni grazie alla voluntary disclosure, questa nuova procedura di regolarizzazione delle nostre posizioni all'estero, appunto con il fisco italiano, che entra sempre più nel vivo. Insieme a noi stamattina un esperto del Sole 24 Ore, l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria SPA. Forse negli anni passati, avvocato Vedana, quando parlavamo dei vari scudi fiscali, effettivamente parlavamo molto di immobili. Adesso invece si sta, lo notavo stamattina, ampliando la rosa dei redditi che si percepiscono all'estero, e anche questo è un indicatore importante di come sta andando il mercato del lavoro italiano, no? Molti ragazzi se ne devono andare, e oltre al fatto che magari qualche volta così mettono un po' in una condizione di sofferenza mamma e papà, devono pure cercare di capire bene come fare con il fisco italiano. Veramente qua un po' mi verrebbe da dire cornuti mazziati, si può dire? Altro che pruritino alle mani. Brava, eccoci qua, avvocato. Approfitto, visto che si è parlato di un vocabolario prima, di un famoso vocabolario, credo che dal prossimo anno avremo un altro verbo nel vocabolario italiano. Disclosare. Disclosare. Ai tempi dello scudo si scudava. È vero. E al tempo della voluntary si deve disclosare. Qualcuno magari già ci ha pensato di metterlo su Wikipedia. Ecco, disclosare vuol dire confessare. Siamo in Quaresima, per i cristiani si sa che in Quaresima ci si deve confessare. La Quaresima finisce con la famosa Pasqua ad aprile. La voluntary disclosure finisce un po' più là, e la confessione può arrivare entro settembre del 2015. Disclosare che cosa? Disclosare situazioni come quelle di figli che vanno all'estero, lavorano all'estero e non fanno mente locale su quelli che sono i loro obblighi fiscali, RV oppure altro. Devo dire che nelle ormai frequenti occasioni di conversazione sul tema voluntari, spesso e volentieri le situazioni dei figli sono anche quelle del figlio che ha ereditato patrimoni più o meno ingenti, mobiliari, conto corrente o immobiliari, gli immobili, certo. E li ha ereditati e i genitori sono ancora in vita e i genitori si preoccupano di capire se si sono dimenticati qualcosa, quindi eredità, lavoro all'estero, sono tutte situazioni che evidentemente possono certo. essere oggetto della voluntary esatto. disclosure. E che possono esatto, crearsi davvero in totale buona fede senza che per questo dobbiamo passare, come dire, come gli evasori fiscali che hanno combinato chissà che cosa, però insomma sono situazioni sulle quali bisogna fare mente locale e comunicarle correttamente al fisco italiano. Comunicarle non sempre obbligatoriamente poi doverci pagare imposte o addirittura sanzioni. Era Leonardo forse che si era messo... Era in attesa prima dei mercati. Esattamente. Poi l'omino ci ha fatto andare subito ai mercati e noi adesso ripeschiamo Leonardo. Buongiorno Leonardo. Buongiorno. È il suo buongiorno. Momento. Buongiorno a lei. Posso parlare? Certo. Grazie, io scusa, pur correndo il rischio di apparire come quello che non ha capito niente, volevo insistere... Guardi Leonardo che è in buona compagnia perché qua è tutto difficilissimo. Insisto ancora sullo stesso argomento, ho mio figlio che sta in America a fare un PhD, sarebbe un dottorato di ricerca, che è il livello più alto di istruzione, però viene regolarmente, poiché insegna, viene regolarmente pagato dall'Università di Chicago. L'università fa la trattenuta alla fonte delle tasse che poi gira lo Stato americano. Fare 7,30 e quindi l'RV in Italia, perché lui ha la residenza in Italia, significa mettere l'importo lordo e il netto e andare poi in dare avere in detrazione o cos'altro deve fare? In questo caso, essendo il livello più alto di istruzione, comunque c'è questo obbligo? Grazie Leonardo. Leonardo già sa. Già sa uno, secondo cui... complimenti a questo figlio che si sta prendendo il PhD a Chicago, vero? Ecco, che soddisfazione questi ragazzi. Assolutamente, mi associo, speriamo che poi torni in patria però certo. il figlio dell'ascoltatore. Beh, innanzitutto l'ascoltatore sarà bene che faccia qualche riflessione col commercialista di fiducia, questo è bene sottolinearlo perché poi la presentazione delle dichiarazioni fiscali passano necessariamente attraverso un commercialista o attraverso un CAF, ma comunque attraverso quegli interlocutori. Sicuramente potrà scontare il credito d'imposta che eventualmente sta pagando all'estero. Non vedrei il tema dell'RV, ripeto ancora una volta, come un elemento di preoccupazione, è semplicemente un quadro con il quale lo Stato vuole sapere gli italiani che hanno la residenza fiscale in Italia dove hanno le loro disponibilità. Per quale motivo? Beh, possiamo immaginare chiaramente i motivi. I motivi possono essere che se il fisco italiano ritiene che quel cittadino residente fiscale in Italia ha dei debiti col fisco italiano, sa dove poter andare a prendere quei soldi. Quindi se non fai l'RV io non posso mai sapere dove hai delle attività all'estero. C'è un'alternativa all'RV, certo, se vuoi evitarti l'RV, andare esente dalla compilazione dell'RV, puoi rivolgerti ad un intermediario italiano che ti faccia da sostituto d'imposta, in modo tale che tu su quei soldi non devi fare niente. Quindi c'è qualcuno caso, per che esempio, per te calcola. Una fiduciaria tipo quella una che gestisce lei, piuttosto ecco. che una banca sulla quale far accreditare lo stipendio. Quindi se lo stipendio viene accreditato su una banca italiana, pur se soldi guadagnati all'estero, il tema dell'RV si pone e non si pone. Il caso di Leonardo allora ha due opzioni, o presentare il quadro RV perché comunque ancora questo figlio ha il domicilio fiscale, la residenza fiscale in Italia, e in questo caso comunque l'importo che deve essere indicato è sempre quello lordo, esatto. uno, oppure... farsi accreditare su quello conto che percepisce italiano. A Chicago su un conto corrente italiano, in questo caso la banca fungerebbe da sostituto d'imposta e gli eviterebbe, lo esenterebbe dalla presentazione del quadro RV. E quindi insomma due strade che il nostro amico può fare un conto con appunto il commercialista di quale sia la strada che gli conviene di più. C'è la terza strada, ne parlo, ma voglio dire l'intestazione del conto estero ad una fiduciaria, ma probabilmente su valori di un certo tipo, non, magari potrebbe non giustificarsi l'intervento della fiduciaria, la terza via. Al di sopra di quale valore sarebbe necessario, secondo lei, fare l'operazione con la fiduciaria? Importi rilevanti? Sopra i 100.000 euro. Ecco, diciamo. Direi che... Io gli auguro di prendere questi soldi, al sto momento. Ragazzo, però diciamo che è improbabile. Allora... Sì. Andrei a Sondrio. Volentieri. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno. Un altro Buongiorno. Pronto insomma a farsi la, il viaggio transoceanico. Volo. Stefano, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci faccia sognare, dove se ne va? Allora, io praticamente io ho un ristorante qui in Italia, fino a quest'anno per tutto l'anno, dall'anno prossimo sarà aperto solo d'inverno. E durante l'estate, quindi da aprile a novembre, mi trasferisco con lunga quest'estate sua, Stefano, perché è californiana, quindi sapevo io che dovevamo sognare. Mi trasferisco in California con la moglie a lavorare come dipendente, come chef in una casa vinicola. Volevo sapere come mi devo comportare appunto col fisco italiano per i redditi percepiti come dipendente negli Stati Uniti. Infatti no, perché anche questa è una situazione come dire mixata, no? Qua ha un ristorante che è di sua proprietà, però va per qualche mese negli Stati Uniti a fare un lavoro dipendente. Avvocato Vedana, stamattina la faccio sbizzarrire. Tra l'altro un'ottima opportunità e anche un'ottima idea. Altro che, perché Stefano, come si suol dire, tanto di cappello. Bravo. No? Infatti. Intanto ricordiamo all'ascoltatore che la Televoluntary sarà collegata anche con Sondrio, quindi tra le sedi ospitanti c'è anche Sondrio. Quindi se vuole approfittarne per saperne di più sulla Voluntary Disclosure. Diciamo che valgono le considerazioni fatte col precedente ascoltatore, quindi il fatto che l'ascoltatore voglia andare all'estero e grazie a questa sua arte in cucina guadagna dei soldi all'estero, deve limitarsi ad indicarne nel quadro RW, ovvero farseli accreditare sul conto corrente presso la banca italiana. Ecco, è bene che questi soldi che guadagnerà non li lasci all'estero e non li dichiari nell'RV, perché con gli Stati Uniti già l'Italia ha un accordo per lo scambio di informazioni tale per cui eventuali redditi non pagati in nero, evidentemente stiamo pagando parlando di redditi regolarmente pagati con un assegno o con un bonifico su un conto corrente, è bene che vengano messi nel quadro RV oppure direttamente accreditati sul conto corrente italiano. Esatto, tra l'altro avvocato Vedana oppure sul nostro, se vuole, se proprio insiste, se proprio non avesse un conto corrente italiano e volesse mettere i nostri, una bottiglietta di vino anche dall'azienda vitivinicola dove va a lavorare. Napa, Sonoma, chissà dove va, tra l'altro mi sono dimenticata di chiederlo a Stefano. Tra l'altro avvocato Vedana, questo scambio di informazioni del quale lei parlava, no, che già avviene con gli Stati Uniti, con che modalità avviene? Nel senso, ammettendo appunto che Stefano adesso lui se ne va, percepisce un reddito negli Stati Uniti, lo accredita su un conto corrente aperto presso una banca americana, si dimentica di dirlo al fisco italiano, come gli Stati Uniti poi trasferiscono queste informazioni all'Italia? Tu vuoi complicare la vita agli ascoltatori? Certamente, siamo qua apposta. Allora, dal 2016-2017 entrerà in vigore il cosiddetto Common Reporting Standard, un nuovo standard di comunicazione. Volevo coglierlo di sorpresa, ma invece sta tutto. Un nuovo standard di comunicazione tra stati, che troverà applicazione anche nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, in forza del quale l'IRS, che è l'amministrazione fiscale americana, comunicherà all'Agenzia delle Entrate con una periodicità e con delle modalità, queste sì sono ancora in corso di definizione, il flusso di dati non è ancora chiarito come avverrà. Sicuramente il Common Reporting Standard prevederà quelli che sono i campi obbligatori, quindi tutte le informazioni che tra stati ci si dovrà scambiare a partire dal 2016-2017. Lo stesso standard sarà poi utilizzato sempre dal 2017 anche nei rapporti tra Svizzera e Italia. Mi stavo chiedendo, dopo disclosare da Common Reporting Standard, quale cosa arriverà? Neologismo. Commonare, reportare o che cos'altro? Velocemente l'ultima domanda la prendiamo da Antonio da Torino. Antonio, buongiorno. Antonio, non lo possiamo prendere, lavora in Francia, risiede a Torino. Possiamo prendere un SMS, Nicoletta, se ce n'è qualcuno che ti... No, ma così. Antonio c'è. C'è? Antonio, sì, buongiorno, chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Sì, esatto. Eccoci. Senti, volevo chiedergli una cosa. Prima di tutto grazie dell'aiuto che ci date e della compagnia, prima di tutto. Grazie. Poi volevo chiedere all'avvocato. Senta, io lavoro in Francia, sono residente in Italia e il conto corrente ce l'ho in Italia. L'azienda dove lavoro, ogni anno mi dicono sempre, si preoccupano sempre di ricordarmi di c'è una casella, adesso non mi ricordo come si chiama, sulla dichiarazione dei redditi, su in alto sulla destra. L'RV doppio. Bisogna sempre specificare reddito da lavoro frontaliero. Ecco, se io non mettessi, perché qualche mio collega non l'ha mai messo, io invece mi sono sempre ricordato di metterlo. Ecco, che differenza c'è? Mettere questa dicitura reddito. Grazie Antonio, dobbiamo andare velocemente in chiusura, in 30 secondi ce la facciamo, avvocato Vedana? Beh, allora il tema dei frontalieri è un tema che oggi sarà oggetto anche del famoso accordo con la Svizzera, anche se solo con un impegno a definirne meglio i contenuti. Per i frontalieri esiste un regime fiscale particolare, sì. Tale per cui per essere frontaliere bisogna essere residente entro un certo raggio nei confini, entro 20 km, 30 km a seconda dei paesi. E per i frontalieri è previsto un trattamento fiscale differenziato. Una parte dei redditi derivanti dal lavoro estero rimangono allo stato in cui vengono prodotti, Francia piuttosto che Svizzera. Una parte, la più consistente normalmente, viene girata ai comuni di residenza dei frontalieri. Bisogna vedere il caso dell'ascoltatore, probabilmente merita un approfondimento. Antonio ci scriva e noi lo faremo in privato, così come invito a fare tutti gli altri ascoltatori che non siamo riusciti ad accontentare oggi facendoli intervenire in diretta. L'avvocato Vedana ci dà sempre una gran mano poi in privato a rispondere a tutti. Intanto buon lavoro, buon divertimento con tutte queste novità. Buona disclosure. Ma poi soprattutto, insomma, complimenti per come ci spiega sempre tutto in maniera molto chiara l'avvocato Vedana. Bene, però il prurito non c'è passato, anzi ce ne è venuto un po' di più. Allora ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Grattarsi è una delle gratificazioni più grandi che ci offra la natura e quella più a portata di mano. Ma purtroppo il pentimento le sta sempre alle calcagna. Abbiamo scomodato Montaigne per introdurre il tema della seconda parte di Cuore Denari. Parliamo del prurito, un'esperienza che tutti conosciamo perché basta una puntolina di insetto per provare questa sgradevole sensazione che attiva il desiderio di grattarsi per trovarsi un sollievo, ahimè momentaneo, dato che nella maggior parte dei casi il prurito peggiora dopo aver smesso di grattarsi. Mi fermo perché molti esperimenti di psicosomatica dimostrano come sia sufficiente il pensiero a stimolare il prurito. Confermate? Chiamate allora il nostro numero verde per avere sollievo, ma anche per conoscere e inquadrare bene il problema. Ci aiuta un grandissimo esperto, con piacere vi diciamo che è tornato a trovarci il professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Dermatologia all'Università Statale di Milano e autore del libro Storia della Dermatologia e della Venereologia in Italia, edito da Springer. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, il prurito ha una qualche parentela con il dolore, ma non è vero proprio dolore. Che cos'è? Per riprendere il dubbio di Ippocrate, è un sintomo oppure una malattia a sé stante? Ma sostanzialmente il prurito è un sintomo. La sua parentela col dolore è affascinante perché basta dire un esempio: che gli oppiacei, che sono i più potenti farmaci antidolore, in realtà stimolano il prurito. Quindi questo paradosso ancora oggi fa impazzire i medici. E quindi la faccenda si rimane ancora aperta, diciamo. Professore, il prurito, oltre a essere una manifestazione tipica di problemi alla pelle, spesso banali, può talvolta essere spia invece di malattie più serie. Ma dato che è al dermatologo che ci si rivolge per venire a capo del problema, e che noi oggi proprio ci concentreremo sul prurito, sintomo di malattie cutanee, iniziamo subito a capire, professor Gelmetti, ci aiuti lei a farlo, quando il prurito va guardato con sospetto. Ma la cosa principale è escludere una causa cutanea e quindi la cosa fondamentale, come diceva giustamente lei, è verificare che nella sede del prurito dove il paziente accusa il sintomo non ci siano dei segni anche piccoli che possono giustificarlo. Certe volte i segni sono molto piccoli, quindi possono essere visti bene solo con una lente o un dermatoscopio, come ad esempio in caso iniziale di scabbia la diagnosi può essere molto difficile, però se ovviamente c'è una causa locale che dà il prurito è inutile pensare a cose più complicate, è ben diverso il caso ovviamente opposto. Professore, lei ha parlato di scabbia, esiste ancora questa malattia, vero? La scabbia è una patologia diffusa. Anche se sembra strano nel 2015 parlare di scabbia, ma esiste ed è parecchio diffusa, vero professore? Il prurito è uno dei segnali. Il prurito è proprio tipicissimo e la cosa che la caratterizza nel caso della scabbia precisa è il prurito che si estende ai familiari, ai conviventi, e il suo incremento notturno che è proprio tipico. Quindi parliamo anche di pruriti familiari, Deborah? 800 24 00 24. Non solo quelli fiscali ma anche quelli familiari. Come sempre i messaggi al 349-238-6666, potete seguirci su Facebook e su Twitter. Il prurito, lo sappiamo bene, ha delle caratteristiche, delle peculiarità che indirizzano l'attenzione del dermatologo sulla possibile causa, così come abbiamo intuito da quanto ci ha raccontato il professor Gelmetti. Allora, noi abbiamo preparato una scheda per invitare chi ci sta seguendo a rispondere ad alcune domande e quindi a raccogliere, come si dice, le informazioni che possono aiutare il medico a inquadrare il problema. Provate a sentire, rispondete 800 24 0024 per intervenire in diretta. Da quanto tempo è insorto il tuo prurito? Grattandoti, provi sollievo o al contrario il disturbo peggiora? Insorge in ore particolari della giornata, ad esempio di notte o in alcune stagioni? Altri componenti della tua famiglia hanno lo stesso problema? È diffuso su tutto il corpo o localizzato in aree precise? Sono presenti lesioni cutanee? Peggiora dopo un bagno o una doccia calda? Provate a rispondere nell'attesa delle vostre chiamate. Professor Gelmetti, molte malattie cutanee, lo sappiamo, esordiscono proprio con un prurito più o meno intenso. Nella dermatite atopica, ad esempio, può essere molto severo. Sì, la dermatite atopica, che è il classico edema che colpisce i bambini, il prurito è il sintomo principe, diciamo che è una delle cose che permettono di fare pendere la bilancia della diagnosi sicura dalla parte giusta, anche se può presentare grosse oscillazioni durante la giornata, ad esempio se il bambino è distratto o fa un'attività piacevole può essere molto modesto, mentre spesso verso sera tende ad aumentare. Bisogna dire che quasi tutti i pruriti tendono ad aumentare verso sera, anche se in alcuni casi, come la scabbia ha detto prima, l'aumento serotino è clamoroso. Professore, potrebbe essere utile capire, e quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad aggiungere questo dettaglio, se il prurito si accompagna ad altri sintomi e manifestazioni. Lei aveva anticipato magari delle piccole lesioni cutanee che non sono visibili dal soggetto ma devono essere proprio inquadrate dal dermatologo, oppure il rossore delle squamette, insomma anche la pelle parla e aiuta a indirizzare alla diagnosi. Sì, certo, anche se in questo caso la difficoltà, e qui sta forse il plus che può dare il dermatologo, è nel fatto che, dato che il prurito provoca il grattamento come riflesso, sì, molte volte le lesioni che si vedono sono prevalentemente quelle reattive e la lesione che ha dato origine primitivamente al prurito rimane, confinata o mascherata dalle lesioni secondarie. Questo ad esempio anche nel caso della scabbia è una delle cose classiche che si osservano, la maggior parte delle lesioni in realtà sono provocate dal grattamento, che poi uno si gratta, ha un temporaneo sollievo e poi boom, di nuovo ti fa... Allora, dove andiamo? Allora, cominciamo, abbiamo due amiche, presento Maria da Ivrea. Buongiorno. Salutiamo. Maria, benvenuta. Buongiorno. Eccoci a lei, ci dica tutto. Allora, Allora, io intanto buongiorno a tutti e grazie per l'aiuto che ci date quotidianamente. Comunque, il mio problema è questo. 2 anni fa mi è cominciato un prurito sulla scapola sinistra e avevo, mio marito mi ha detto che avevo 2 puntini rossi e ho pensato a una banale puntura di insetto, sì. Quindi non ho approfondito. Poi questi puntini sono spariti, non avevo assolutamente più nulla, però sono 2 anni che io in quel posto continuo saltuariamente ad avere puntini pruriginosi. Sì, sì, sì, cioè non c'è niente sulla pelle, sono andata dal medico, mi ha detto ma no, non c'è assolutamente niente, ma io continuo ad avere questo prurito saltuario, diciamo, non continuo. Ogni tanto penso sento che dei formicoli quando non c'è circolazione del sangue, presente? Ecco. Bene, professor Gelmetti, abbiamo meno di un minuto. Però... È una cosa interessante, bisogna escludere in questi casi, quando c'è il prurito al dorso, soprattutto le scapole, bisogna escludere la celiachia, quindi bisogna escludere una malattia che si chiama dermatite herpetiforme, e adesso è semplice perché basta un prelievo del sangue, perché ci potrebbe essere appunto una relazione tra questo disturbo gastroenterico e il prurito. Questo è da segnare, ricordiamocelo, perché abbiamo dedicato tante puntate alla celiachia. Attenzione, dermatite herpetiforme, praticamente queste piccole papulette che prudono e poi spariscono. Attenzione, potrebbe... Chi mai farebbe questa relazione incredibile? Il professor Gelmetti, bravo, che resta con noi sino dopo il GR. Grazie. Cuore e denari. Io non ce la faccio più. Più mi lavo le mani, più mi viene da grattare. Pippo, vai in farmacia e fatti dare qualcosa per estirpare il male alla radice. Ciao ragazzi, ma cosa è successo? L'interinale ha preso il mio posto anche come zimbello, Togo. Ma non dovevi tornare lunedì? Lo so, ma l'aereo è arrivato prima, sono passato a trovare i miei amici. È andata bene, 2 giorni che ci grattiamo. Ah, allora ha funzionato. Cosa? È perché l'ho messa io la polverina urticante nel sapone liquido del bagno, così più ti lavi le mani e più ti prude, è uno scherzo toghissimo. Stiamo affrontando un tema pruriginoso, per certi versi contagiosi. Parliamo di prurito insieme al professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Dermatologia all'Università Statale di Milano. Professore, oggi parliamo, ci limitiamo a considerare il prurito come sintomo delle malattie cutanee. Tra l'altro, io volevo ricordare agli ascoltatori che vivono a Milano, che avranno magari nei prossimi giorni occasione di passare da Milano, che è stata allestita una bellissima mostra ad ingresso gratuito, Arte Pelle, proprio nel corridoio della Clinica Dermatologica di Milano in Via Pace. Ci saranno anche qualche immagine dedicata a una persona che si intenta grattarsi? Sì, sì, certo. Erano i falsari, vero, che erano puniti da Dante, che li aveva messi all'inferno con la scabbia, professor Gelmetti? Anche, ma... diciamo che in a proposito di la Bolognari non la potevano fare. Professore, mi scusi che l'ho interrotta. No, in una delle immagini c'è una figura molto bella di un quadro di De Hoch, che è un pittore contemporaneo di Vermeer, quello che è diventato famoso per La ragazza dell'orecchino di perla. Esatto, dove si vede è chiamato l'ora della madre, si vede una madre che sembra che accarezzi un bambino che è inginocchiato davanti a lei. In realtà era il momento dello spidocchiamento, che era stato ed era un momento di clou della vita di tutti i giorni. Addirittura fino al Novecento, fino alle due guerre, c'erano addirittura delle cartoline che facevano vedere la mamma o la nonna che si occupava del bambino, del figlio, del nipote in questo momento particolare. Un po' come fanno le scimmie, no? Esatto, esatto, ma nel caso dei primati si chiama grooming, questa cerimonia è una cerimonia assolutamente imprescindibile, che serve a rafforzare il legame tra la mamma e la discendenza. Invece cercare i pidocchi sulla testa dei bambini, perché può capitare ancora oggi, professor Gelmetti, io e lei abbiamo fatto delle puntate sui pidocchi. Io sento un sacco di amiche che ciclicamente hanno questo problema. È una bella rogna, come si dice, professor Gelmetti. Termine giusto, direi, peraltro. Sì, ma bisogna tenere presente che i pidocchi amano le persone pulite, quindi più i capelli sono puliti più i pidocchi sono contenti, quindi questo per sfatare uno dei tanti miti. Quindi bisogna non lavarli troppo di frequente, soprattutto se sappiamo che nella classe del nostro bambino si aggirano i pidocchietti. Professore, però io non ho capito, mi sembra che tra lo sbadiglio e il prurito ci siano delle analogie, perché quando noi sbadigliamo, vediamo una persona che sbadiglia, ci viene subito voglia di sbadigliare, ma se noi pensiamo, parliamo della pidocchi, o dici sai mi prude qui, bene o male siamo in qualche modo tentati di grattarci anche noi, insomma è da questi per questi questo aspetto contagioso. No, il prurito ha una grandissima importanza a livello centrale, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro sistema nervoso centrale, la nostra coscienza, le nostre sensazioni, le nostre esperienze precedenti hanno un ruolo assolutamente fondamentale, tant'è vero che in alcuni casi si può dire che il prurito sia contagioso semplicemente per il fatto di essere imitativi nei confronti di un altro. Detto questo, la sospensione di alcune attività del sistema nervoso centrale può portare a un abbattimento totale del prurito, e quindi questo è una cosa che va tenuta presente, perché in alcuni casi il paziente con alcune patologie tipo quella che abbiamo discusso prima, la scalpia, può addirittura non grattarsi se è stato sottoposto a trattamenti sedativi pesanti, perché giustamente il sistema nervoso centrale non risponde. Però in questo caso bisogna appunto verificare se ci sono lesioni cutanee che possano giustificare quello che sarebbe stato un prurito se il paziente avrebbe potuto grattarsi. Allora andiamo ai nostri ascoltatori, possiamo andare ad Alessandria o restare a Milano? Andrei ad Alessandria, perché Maria Rosa ci racconta una cosa che in realtà ci viene segnalata anche da molte altre ascoltatrici, in particolar modo all'SMS. Maria Rosa, benvenuta. Buongiorno a tutti. Io chiamo per un problema al cuoio capelluto, mi capita, non tutte le volte devo dire, quando la parrucchiera mi applica il colore, dopo circa 10 minuti di sentire un fastidio, un tipo punture di spillo, a volte appena accennata la cosa, a volte più intensa. Volevo sapere se devo tenermi i capelli bianchi. Ma non è un prurito comunque che le rimane a lungo, Maria Rosa? Non è un prurito. Cambiare marca, tinta. Io chiedo sempre di applicarmi colori per pelli sensibili, così di questo tipo, anche l'ossigeno blando, eccetera. Però niente. A volte succede, a volte no. La parrucchiera mi dice che può dipendere un po' dal nostro stato di salute, ecco, da noi, e non tanto dal colore che mi applica. Io qualche professor Gelmetti, lei che dice? Può darsi che la parrucchiera abbia ragione, però ovviamente nel caso di un'allergia a un colorante o a un mordenzante, che è una sostanza che è presente in molte tinture, basta fare dei test epicutanei, si chiamano anche patch test, per saperlo e quindi togliersi il dubbio. E quindi almeno Maria Rosa capisce esattamente qual è il problema. Professor Gelmetti, io tornerei sul prurito, che come sintomo che accomuna le dermatiti, che sappiamo sono una grande famiglia. Disturbi di malattie cutanee, perché abbiamo parlato di quella atopica, ma c'è quella seborroica, quella da contatto. Sì. Nella gestione di questo sintomo così fastidioso ci sono delle novità, ci sono degli errori da evitare, delle cautele da avere? Ma allora, la faccenda è che quando abbiamo una dermatite di causa conosciuta, ad esempio dermatite da contatto come potrebbe essere quella da tintura oppure da un colorante, ovviamente la cosa più importante è togliere la causa scatenante e contemporaneamente avere un trattamento antinfiammatorio con cortisonici o antistaminici. Il problema diventa completamente diverso quando noi abbiamo un prurito da causa da accertare, perché allora ovviamente una terapia sintomatica deve non essere dannosa, quindi antistaminici si possono usare anche per tempi lunghi, mentre altri farmaci vanno presi ovviamente con le molle. Andiamo a Marco, che ci chiama da Milano. Anche lui ci descrive una forma di prurito, sembra molto diffusa. Sì. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Eccoci qui Marco. Allora, io ho questa tipologia di problema. Dopo essermi fatto la doccia, comincio a provare un prurito che parte dalle caviglie e mi prende pian piano tutta la gamba, parte dalle spalle, mi prende i pettorali e va fino alle mani, dura circa un'oretta e aumenta in maniera esponenziale fino ad arrivare più o meno ad avere la sensazione di essere punto da una marea di spilli. Ho provato a cambiare saponi, ho provato a temperatura dell'acqua, cambiato temperatura dell'acqua, calda, freddo. La cosa mi succede in periodi non ben definiti, non sono legati a niente di particolare, va avanti per qualche mese e poi smette così come è venuto, e l'unico momento in cui non lo provo è quando faccio la doccia dopo aver fatto attività fisica, palestra piuttosto che calcetto, cose di questo genere. Quindi è costretto ad essere uno sportivone lei, Marco? Che non mi dispiacerebbe, però sono un po' pigro, certo. Per cui la pancetta l'ho messa su. E l'altra cosa è, io provo sollievo, ma un leggero sollievo, più che a grattarmi, ad accarezzarmi. Ma la storia che racconta il nostro ascoltatore potrebbe essere il caso di un'orticaria acquagenica. Acquagenica vuol dire che il prurito, accompagnato o meno da ponfi, è scatenato dal contatto con l'acqua, indipendentemente dalla temperatura e indipendentemente dal tipo di detergente o sapone usato. Allora, per escludere questa possibilità, quello che si fa in questi casi è un test da esposizione all'acqua, o un test di esposizione all'acqua fredda con ghiaccio, per vedere se si riesce a evidenziare qualche cosa. In questo caso la storia del prurito che scompare dopo un evento di tipo ginnico eccetera, potrebbe stare col fatto che quando uno esegue un'attività che fa spendere calorie come uno sforzo fisico, può deprivare la cute di alcune sostanze che fanno diventare pruriginosi, e infatti può esserci anche il contrario: quelli che fanno uno sforzo fisico sportivo e hanno prurito, e in questo caso poi passa dopo 15-20 minuti. Professor Gelmetti, nella nostra scheda avevamo messo una domanda riguardo al prurito: se è diffuso su tutto il corpo o localizzato in aree precise. Questo, che differenza fa avere questa indicazione, professore? Perché ci sono degli ascoltatori che ci segnalano prurito sulle gambe, altre sotto le ascelle, mi suggerisce Deborah. È vero, ci tra le dita delle mani. Vero. Ecco, oppure invece molti hanno la sensazione di avere, come ci ha raccontato Marco, questa sensazione di prurito dalla testa ai piedi, insomma. Allora, quando c'è un prurito localizzato, spesso il prurito localizzato si associa anche con un segno. Ricordiamo che la definizione di qualcosa che si sente in maniera soggettiva si dice sintomo, mentre invece con il termine segno si indica qualcosa di visibile e di oggettivo. Quando invece noi abbiamo un prurito diffuso, come potrebbe essere tutto il corpo, a vaste aree del corpo, spesso è un prurito che può avere una causa interna o gastroenterologica, come ad esempio la dermatite herpetiforme per quanto riguarda la celiachia. Bisogna dire però che anche per patologie squisitamente cutanee, come la scabbia con cui abbiamo iniziato il discorso, dopo un po' il prurito si generalizza. Perché? Perché ovviamente il parassita tende a occupare zone della cute sempre più estese, per cui questo carattere, diciamo, localizzato, diffuso, è un carattere un po' scivoloso e va preso con le molle. Professore, esiste anche il prurito di origine psicosomatica, perché l'abbiamo detto, la pelle parla, comunicando ciò che a volte con le parole non riusciamo ad esprimere. Sappiamo che c'è uno stretto legame con il sistema nervoso e la pelle, e questo fa sì che la pelle diventi un po' la cartina tornasole delle nostre emozioni, dei nostri disagi, delle nostre paure, delle insicurezze. Un ascoltatore infatti ci ha scritto, è stato uno dei primi sms, andiamo a ripescarlo: quando sono nervoso mi gratto da tutte le parti. Professor Gelmetti. Ma sì, bisogna tenere presente che il prurito è una in alcuni casi una autoaggressione moderata, e quindi non sono rari i pazienti che preferiscono inconsciamente ovviamente sfogare in questo modo stati di tensione. L'altra cosa interessante è che in alcuni casi il tipo di prurito o la sede del prurito possono indirizzare su quello che è il punto non risolto della gestione del paziente. Ad esempio, prurito genitale o prurito in sede perianale possono indicare una insoddisfazione nella gestione delle problematiche con i rapporti con l'altro sesso. Altri esempi, ad esempio, professor Gelmetti, localizzato ad esempio nelle mani o nella zona del collo? Ma ad esempio nelle mani la psicologia si interessa molto alle tendenze aggressive del soggetto verso altri soggetti. Infatti uno dice mi fai prudere le mani, vero? Esatto. Ti strozzo. O addirittura autoaggressive, e quindi anche se bisogna dire ovviamente che il prurito alle mani è molto diffuso per motivi banali che vanno dalle dermatiti irritative a quelle strettamente allergiche. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando, poi chiederemo al professor Gelmetti se in alcune situazioni il prurito si può evitare con un po' di buon senso, con qualche regola di attenzione. Dove andiamo? Silvia? Andiamo Silvia, a Genova. Silvia, benvenuta. Grazie e grazie di avermi richiamato. Allora, il mio problema è questo. Da una decina, quindicina di giorni ho un prurito intermittente che si verifica soprattutto al viso e al cuoio capelluto, al viso in particolare nell'arcata sopraccigliare, e qualche volta anche, ma molto molto brevemente, in qualche altra parte del corpo. Io ho provato ho cambiato tutti i saponi, latte detergente, creme, shampoo, ecco, ma non c'è stato nessun risultato. Volevo sapere se è possibile che sia collegata l'assunzione di vitamina A nel Rovigon che mi è stato prescritto per problemi di udito. Assumendo da qualche giorno? Ecco, l'ho assunto per un mese in dose di 2 pastiglie al giorno. Mentre ho letto sul foglio illustrativo sul bugiardino, il bugiardino, infatti, che è una sola, e la dose suggerita, e comunque ho smesso il 9 di febbraio. Però il prurito comunque continua. Professor Gelmetti, grazie Silvia. Silvia ci dà l'opportunità di introdurre il rapporto farmaci-prurito, perché no, se uno sta prendendo un farmaco e dice... È un problemone, sta di fatto che molti pruriti cosiddetti sine materia, cioè che non hanno un correlato cutaneo, possono essere provocati o diciamo stimolati dai farmaci. Per quanto riguarda la vitamina A e i suoi derivati, possiamo avere un prurito ma solamente a dosi molto molto elevate, nel senso che la vitamina A e i suoi derivati tendono a aumentare il turnover, quindi il ricambio della pelle, e quindi a far diventare la pelle magari più secca, più rossa, ma questo avviene per dosi veramente elevate e generalmente non con quelle che si danno in farmacia senza ricetta, come può essere il farmaco, l'integratore che ha citato la nostra ascoltatrice. La sede del prurito più che altro mi fa pensare che possa esserci una dermatite seborroica, anche se modesta, perché l'ascoltatrice citava l'arco sopraccigliare, e quindi in questo caso ovviamente va verificato se anche al cuore capelluto o dietro le orecchie c'è qualcosa. In questo caso io farei un piccolo controllo per verificare se per caso non c'è anche l'Helicobacter pylori a livello dello stomaco. Vedi, perché poi professor Baira ritorna sempre tra di noi. Allora, professor Gelmetti, vogliamo dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori? Ci sono tipi di prurito che potrebbero essere prevenuti con un po' di buon senso, facendo un po' di prevenzione e di attenzione. Ad esempio, la secchezza cutanea. Molti anziani si misurano con un prurito, ce lo stanno segnalando in tanti, ma chi ha dei genitori anziani questo problema sicuramente lo conosce. Certo. La pelle diventa molto secca, professor Gelmetti, ed è facile che si avverta questo prurito. Basta idratarla, si può fare qualcosa? Il problema è che il prurito agli anziani è in aumento importante, perché l'età media ovviamente si sta alzando in maniera rilevante, e quindi sostanzialmente dopo 75 anni è difficile trovare un paziente che non abbia più o meno prurito. Quello da evitare è pensare che lavandosi spesso il prurito possa diminuire. In realtà l'anziano ha meno sebo sulla pelle perché ha meno ormoni sessuali che lo stimolano, e quindi una idratazione quotidiana deve essere presa in assoluta considerazione, quindi idratare la pelle come uno si lava i denti, cioè in maniera regolare. E non in maniera a domanda, diciamo. L'olio d'oliva, che molti ascoltatori segnalano, professor Gelmetti, questi rimedi qualche volta un po' fai da te. Allora, l'olio d'oliva va bene per l'insalata, ma per la pelle va malino. Perché? Perché l'olio d'oliva si è visto anche da studi recenti che tende a essere leggermente irritante sulla cute, al contrario di quello che si poteva pensare, mentre l'olio di girasole, che tra l'altro è molto più economico, non ha questo difetto, e quindi dovendo usare un olio per la pelle usiamo l'olio di girasole, mentre quello di oliva lo otterremo per le insalate. Andiamo dove vuoi, a Padova o a Genova? Andiamo a Padova perché credo che l'ascoltatore in questione aspettasse da un po'. Daniele, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie che mi avete chiamato. Allora, io ho un problema più o meno come quel ragazzo che aveva il prurito a periodi. Sì. Nel senso che io soffro di prurito durante i cambi di stagione e soprattutto quando c'è molta umidità. Quindi si sta preparando, Daniele, perché la primavera arriverà. Purtroppo, ecco, sì, quindi purtroppo. Daniele gioca d'anticipo, professor Gelmetti. Ma il prurito stagionale fa pensare alle malattie allergiche stagionali, come il raffreddore del fieno, come la congiuntivite allergica, e quindi in questo caso, prima di lanciarsi in ipotesi fantascientifiche, forse è meglio fare i test, quelli che si chiamano prick test, che sono dei piccoli graffietti sull'avambraccio che si fanno per gli allergeni di tipo alimentare o inalatorio. Per l'età del paziente quasi sempre inalatorio. Non fanno male, ma ti permettono di inquadrare bene il problema. Guglielmo da Genova, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti voi, allora signori, il mio problema è riguardante il piede sinistro. Solo il sinistro? È nato male, è cresciuto peggio. Praticamente come se avessi un piede che soffre la temperatura, sotto, partendo dalla parte sotto l'alluce, fino ad arrivare diciamo al centro del flesso plantare, mi vengono fuori come delle specie, delle piccole bollicine, ma che in verità poi sottocutanee non sono proprio delle bollicine classiche con del liquido, ma un prurito furibondo da massacrarsi un piede per poi trovarle un secche il giorno dopo. Ma allora, un prurito che lascia il segno, cioè mette, diciamo così, ecco. Sì. Diciamo che la cosa più semplice da pensare e da escludere è la tinea pedis, quindi quella che si chiama volgarmente piede d'atleta, anche se nella maggior parte dei pazienti l'inizio non è dal primo dito, ma è dal terzo, il quarto, il quinto dito. Dice, però ovviamente prima di pensare a cose più complicate andrebbe facciamo dalle cose più semplici. Facciamo un esame micologico sulla lesione e dopo l'esame micologico discutiamo. Professor Gelmetti, torni a discutere con noi, perché guardi, i nostri centralini, altro che prurito, esplosi. Si sono infuocati e l'aspettiamo presto, e ricordiamo la mostra in via Pace a Milano. Grazie a voi. Buona giornata. Allora, domani non ci sono. Lo so. Fai la brava? Sì, prometto. Ottimo, a domani.